si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato a tutti, cari ascoltatori. Eccoci qua, ben ritrovati con il Buongiorno del Weekend di Radio 24. Si può fare, stiamo insieme fino alle 10. Un'occhiata tra poco ai giornali di oggi con la rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8. E poi i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie. Cominceremo andando in un comune dove l'accoglienza dei profughi ricava risorse per dare lavoro ai disoccupati. Una ricetta davvero originale, e cercheremo di capire come sono riusciti a fare questo in questo comune. Non anticipo di quale città si tratta, lo scopriremo più tardi. Adesso cominciamo, anzi subito, i nostri contatti. Se volete interagire con noi in tempo reale, oltre al numero SMS 349-238-6666, dopo il GR delle 8 apriremo anche il numero verde per i vostri interventi. Intanto la pagina Facebook si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizio. Vai, cominciamo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, eccoci qua, giornale di oggi, dove in prima pagina dominano le parole del Papa, la nuova sferzata contro i vescovi che vivono in condizioni di ricchezza, l'affare dell'Egitto con il balletto di dichiarazioni che nemmeno Renzi e Alfano sulle unioni civili, le facciamo o non le facciamo, il balletto di dichiarazioni tra la Russia che dice non è attentato, anche se sono stati chiusi i cieli sull'Egitto per quanto riguarda, diciamo, i voli dalla Russia su quel paese, Londra, l'Inghilterra invece che conferma, ribadisce, no, si è trattato di un attentato. Poi la scatola nera, come sapete, che conferma l'ipotesi di una esplosione, questo per quanto riguarda l'Egitto. Poi insomma, invece in Italia manco a farlo apposta, si torna, sembra un sogno o un incubo, a parlare del ponte sullo stretto di Messina, perché lo ha fatto Renzi con due parole nell'immancabile anticipazione del libro di Bruno Vespa, due parole che insomma riaprono un balletto di anche qua di storie vecchie e di dichiarazioni. Vabbè, cominciamo con il Corriere. Diciamo, il Papa, sferzata del Papa, basta faraoni e arrampicatori. Questo, le parole del Papa ieri alla messa, alla Santa Messa. Ma insomma, poi ci sono anche altre notizie per quanto riguarda le inchieste sui fondi e su come sono stati spesi i fondi del Vaticano. Poi però, dicevamo, l'Egitto, la fotonotizia con i turisti che cercano di rientrare dall'Egitto, dallo scalo di Sharm el Sheikh, nello scalo paralizzato dopo l'attentato, turisti spaventati di Sharm costretti a partire senza bagaglio. Poi che altro? Ma insomma, queste stesse notizie sugli altri giornali, qualche titolo velocemente. Repubblica, aerei e allarme ISIS, Putin si arrende, alt ai voli in Egitto. Renzi, faremo il ponte sullo stretto ma prima le emergenze del sud, questo è il titolo della stampa. Torniamo sul Corriere perché per esempio sulla vicenda del ponte sullo stretto, no? Non c'è mai fine al peggio, nel senso che ci abbiamo messo un po' a capire di che cosa si trattava. Certo, il ponte per far passare poi che cosa? Le botti d'acqua per portarle a Messina. Era questo il motivo per cui Renzi ha rilanciato l'idea di fare il ponte. Però pensate che storia pazzesca. Ci vuole Gian Antonio Stella sul Corriere a ricordarcela, perché la questione dell'acqua che manca a Messina per via di frane che hanno fatto crollare, diciamo, il sostegno all'acquedotto e l'acquedotto stesso, e la questione del ponte si intrecciano, perché una delle poche eredità positive dei milioni, forse miliardi, che sono stati spesi ma c'è chi fa i conti, dopo lo vedremo, per l'opera mai costruita del ponte sullo stretto, una delle eredità era proprio una rete di sensori che monitoravano le frane nell'area di Messina. Proprio perché, essendo la Sicilia una zona franosa, pensate, scrive Gian Antonio Stella sul Corriere di oggi, che negli ultimi 15 anni ci sono state 78 frane con 58 vittime, ebbene, proprio perché lì si voleva costruire il ponte, la società Stretto di Messina aveva messo su un progetto multidisciplinare per monitorare diverse attività ambientali, tra cui per esempio anche le frane. Un progetto ambizioso affidato all'Enel francese con la Eurolink, contraente generale guidato da Impregilo, che conficcò nei punti strategici 160 tubi fino a 40 metri di profondità, ospitavano dei sensori di ultima generazione in grado di controllare i movimenti del terreno, così da segnalare gli smottamenti a valle che angosciano i messinesi, cioè da poter tenere sotto controllo anche quelle stesse frane che hanno causato la mancanza dell'acqua a Messina. Ebbene, quando nel 2011 il governo Monti ha avviato a fallimento la società Ponte sullo Stretto, non si è trovato nessuno, comune, regione, ASL, università, provincia, che fosse interessato a rilevare questo sistema di monitoraggio delle frane in una zona iperfranosa come Messina, e è stato tutto smantellato. Quindi adesso c'erano i sensori per monitorare le frane, da poco tempo a questa parte non ci sono più, perché appunto non si è ritenuto di poterci investire sopra. Questo anche le autorità locali, il comune, la regione, la provincia di Messina, che quindi qualche responsabilità, cavolo, ce l'hanno su questa vicenda della frana, dell'acquedotto e quindi della mancanza dell'acqua ormai da alcuni giorni. Uno scandalo incredibile che riguarda la città di Messina, e questo ce lo ricorda Gian Antonio Stella sul Corriere. Tanto per esaurire l'argomento, sulla Stampa ci viene fatto un piccolo schema a memoria, non futura ma presente. Tunnel o sottomarino a campata unica, un sogno costato già 250 milioni di euro. Parliamo del ponte. All'indomani dell'Unità d'Italia, i primi studi per unire Calabria e Sicilia. Si comincia nel 1866, ma si va avanti con varie tappe. Nel 1953 si costituisce presso la Camera di Commercio di Catania il primo comitato promotore per il ponte. Nel 71 per la prima volta una legge stabilisce di costruire un ponte sullo stretto come opera pubblica. Nel 2005 il governo Berlusconi, dopo aver rilanciato il progetto, sceglie un consorzio privato per costruirlo. Nel 2011 finalmente si arriva con il governo Monti, che, preso atto della mancanza assoluta di fondi per realizzare l'opera faraonica, decide di liquidare e chiudere il contratto con il consorzio privato. Io, dopo questa dichiarazione di Renzi, vedo già il bacino elettorale del Partito Democratico esaurirsi come l'acqua a Messina, perché credo che questa cosa del ponte sullo stretto siano finiti i tempi nei quali evocarla portava consensi elettorali. Credo che ormai gli italiani abbiano capito, lo dice persino, per esempio, vediamo, sul Libero, Maurizio Belpietro, uno che sicuramente non può essere tacciato di essere contrario alle grandi opere, no? Scrive così in prima pagina: buone notizie sul fronte degli sprechi, ironico. Dal libro di Bruno Vespa si apprende infatti che il governo è intenzionato a fare il ponte sullo stretto, lo ha detto appunto Renzi al celebre collega di Porta a Porta. Peccato che l'altro giorno il ministro per le infrastrutture Delrio in Parlamento abbia annunciato lo stop ai lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, causa assoluta mancanza di fondi. Così l'autostrada che collega, ma sarebbe meglio dire a questo punto che dovrebbe collegare, Villa San Giovanni, sboccando sul famoso ponte, non sarà conclusa né per il 2016 né per il 2017, probabilmente non lo sarà mai. Il ponte, dunque, più che sullo stretto, sarà sul nulla. E questo è il modo in cui anche Maurizio Belpietro sul Giornale liquida la faccenda. Andiamo a cercare un'altra notizia sulla prima pagina di Repubblica. È un'altra infrastruttura, è un mega oleodotto del quale si discute da anni, e riguarda l'America. Obama blocca il mega oleodotto, una vittoria ambientalista alla vigilia di Parigi. il padre di tutti gli oleodotti, non si farà. Barack Obama ha chiuso una discordia durata 7 anni che aveva spaccato in due il Nord America. Il presidente ha deciso di consolidare la sua eredità ambientalista 3 settimane dalla sua partecipazione al summit di Parigi sul cambiamento climatico, importantissimo appuntamento a novembre. Stop finale dunque per un'infrastruttura da quasi 2000 chilometri che avrebbe dovuto trasportare 800.000 barili di petrolio al giorno dai giacimenti dello stato dell'Alberta in Canada fino a raggiungere il Golfo del Messico. Ci fermiamo per una pausa sul traffico, torniamo tra pochissimo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e stiamo sui giornali di oggi dopo avere dedicato l'ampio approfondimento al tema che, ripeto, evoca un sogno, un incubo, quello del ponte sullo stretto di Messina. Pensavamo davvero di non doverne parlare più, invece sì, ne riparliamo perché, come scrive anche il Fatto Quotidiano, Renzi e Vespa, nuovo contratto con gli italiani, il Premier lo annuncia alle camere, non alle camere ma al mezzo busto. Allora, al mezzo busto Vespa, Renzi ha annunciato anche il suo perché, ha detto no alle proposte di Tito Boeri, presidente dell'INPS, in tema di pensioni, proposte che insomma, avevano suscitato un certo interesse perché sostanzialmente sembrava una cosa di buon senso. Questa proposta del presidente dell'INPS Tito Boeri, cioè, molto sintetizzando, molto brutalmente, andare, diciamo, a fare un prelievo sulle pensioni più alte, più ricche, intorno ai 3.000 euro netti al mese, per diciamo, compensare il famoso calcolo contributivo. Cioè, dove sono state pagate col metodo retributivo queste pensioni, cioè si andava in pensione sostanzialmente con l'ultimo stipendio il più alto, ecco, su quella parte di differenza tra quello che invece si incasserebbe oggi col metodo contributivo, cioè molto meno, su quella differenza andare a fare un prelievo per fare che cosa? Per dare un sostegno al reddito agli ultra 55 anni senza un lavoro, in pratica il terreno degli esodati, cioè gente che magari ha una famiglia, ma anche se non ha una famiglia aveva un lavoro, non ha i requisiti per andare in pensione, non ha un lavoro, perché in Italia c'è una disoccupazione ancora intorno al 12%, e quindi questa è l'idea di Boeri. Non mi piace, ha detto Renzi, sempre parlandone con Bruno Vespa, perché in questo momento bisogna dare fiducia. E tagliare le pensioni non dà fiducia, secondo Renzi. Evidentemente della fiducia degli esodati, però a Renzi non gliene frega un bel nulla, altrimenti non sarebbe stata questa la sua conclusione. Fatto sta che oggi c'è un'intervista al segretario CGIL Camusso sul Corriere, che torna su questo argomento, ma neanche lei è molto d'accordo sulla proposta di Boeri. Camusso: le pensioni d'oro? Boeri è ossessionato, servirebbe una patrimoniale. Ma da che cosa è ossessionato Boeri, le domanda al giornalista del Corriere? Dal ricalcolo contributivo, come se i contributi versati dai lavoratori dessero vita a una proprietà ingiusta. Beh, cara Camusso, in alcuni casi, quando si tratta di pensioni intorno a 3, 4, 5, 6, 10 mila euro al mese netti, ottenuti col metodo retributivo, beh sì, è una proprietà ingiusta. Perché oggi una pensione del genere se la sognano anche quelli che possono pagare contributi altissimi. E quindi, insomma, vabbè. Che altro? La nostra piattaforma, dice la Camusso, invece propone una imposta sui patrimoni immobiliari al di sopra del milione di euro. Bla bla bla, stiamo parlando del 5% delle famiglie italiane, un'aliquota progressiva, eccetera eccetera. E vabbè, insomma, questa è la posizione, giusto per completezza, di il segretario CGIL Camusso, anche lei contraria alla proposta Boeri, già bocciata per altre ragioni da Renzi. Poi, a proposito di sinistra, perché mentre domani ne parleremo, c'è la manifestazione a Bologna organizzata da Salvini contro il governo Renzi, a cui aderisce anche, lo ha detto, il Forza Italia, e ci sarà anche Berlusconi. oggi la sinistra, a sinistra di, più a sinistra di Renzi, del Re e del PD, si riunisce al Teatro Quirino a Roma per lanciare un nuovo soggetto. Ma ci ricorda, il Corriere è già divisa. E vabbè, non c'era bisogno neanche di ricordarlo che la sinistra sia già divisa, perché la sinistra è divisa per definizione. Se ci sono tre correnti, ci sono quattro divisioni al loro interno. Allora, perché questo? Perché uno si immagina, oggi si ritrova la Fassina, Da Torre, i fuoriusciti, Corradino Mineo, Fratoianni, quelli di Sel, ci sarà anche Civati, che è il padre di tutti gli scissionisti del PD. No, Civati non ci va perché è poco convinto da questa accelerazione. Non ci sarà Cofferati, non ci sarà Maurizio Landini, non ci saranno i Verdi, non ci sarà Ferrero, insomma non ci sarà nessuno a questa rinascita della sinistra italiana oggi al Teatro Quirino a Roma. Allora, adesso andiamo a vedere un'altra notizia, intanto sul Sole 24 Ore, perché dall'America arrivano segnali di una grande forza dell'economia americana. La disoccupazione sta scendendo a dei livelli quasi a tasso fisiologico, cioè quasi a livelli di piena occupazione. Chissà come ci sono riusciti gli americani, perché è questo quello che sta succedendo. Stati Uniti, disoccupazione ai minimi, tasso al 5%, il più basso dal 2008, prima quindi della grande crisi. E la Federal Reserve, ci ricorda il Sole 24 Ore, va verso la stretta, cioè la stretta sul costo del denaro, quindi un rialzo del tasso di interesse che magari non farà piacere a chi c'ha il mutuo, chi deve fare il mutuo in America. Però insomma, visto che l'economia vola e c'è anche un rischio di risalita dell'inflazione, la Banca Centrale Americana ha già annunciato che questo è il percorso che dovrebbe esserci. Invece, per quanto riguarda l'Italia, sempre il Sole 24 Ore ci ricorda un'altra notizia, perché ieri il governo ha varato il decreto salva regioni. Deficit spalmati in 30 anni, sono 20 miliardi di euro i deficit accumulati dalle regioni italiane, Lazio in testa, Piemonte, ma poi Campania, Veneto, Emilia Romagna, insomma un po' in proporzione alla popolazione, all'entità dei bilanci, ci sono certificati dalla Corte dei Conti per una serie di questioni contabili, ma insomma i governatori hanno un po' giocato al gioco delle tre carte in questi anni, facendo sparire i debiti da qualche parte. Adesso però sono riaffiorati e sono 20 miliardi di euro, li pagheranno certamente i contribuenti. Infatti anche Libero in prima pagina scrive: il salva regioni lo paghiamo noi, Renzi vara un decreto per dare 20 miliardi agli enti sull'orlo del fallimento. Si tratta di un prestito che andrà restituito a suon di tasse locali, ma è evidente che è un prestito che andrà restituito, e comunque anche se non fosse restituito è un prestito che fa un ente pubblico a un altro ente pubblico, quindi lo pagano comunque sempre i cittadini. Da dove vengono questi sprechi? Da tante fonti, sicuramente una è la sanità, ce lo ricorda oggi La Stampa. Perché ieri c'è stata la presentazione, passata quasi inosservata su tutti i giornali, devo dire un merito alla Stampa di avercelo ricordato, la presentazione ieri del presidente dell'autorità anticorruzione Cantone e del ministro della salute Lorenzin di un piano per mettere a freno la corruzione nella sanità, che ci costa complessivamente, si stimano fino a 56 miliardi di euro. Bisogna leggere l'articolo bene per capire come si arriva a questa cifra mastodontica, però il valore stringendo molto proprio della corruzione invece nel sistema sanitario è stimato in una cifra minore, 6,4 miliardi, comunque non sono pochi all'anno, pensate un po' quanti praticamente si potrebbero ripianare questi debiti regionali solo in questa maniera. Il trucco più diffuso è gonfiare le fatture di mensa e lavanderie, e questo l'approfondimento di oggi sulla Stampa. Siamo in chiusura, giusto il tempo di ricordare che oggi dovrebbe esserci uno sciopero nei grandi supermercati, nei centri commerciali, quindi state attenti. IKEA, Auchan, Carrefour, H&M, OVS, Conin, Zara e anche le cooperative per i dipendenti che sono senza contratto dal 2013. Ci fermiamo qua, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Dopo il GR delle 8 andremo in una città dove i profughi vengono accolti e coi soldi che dovrebbero andare a loro ci si fanno lavorare i disoccupati. La città si chiama Comerio, scopriremo come sono riusciti a farlo. A dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause Uptown funk don't give it to you. 'Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Siamo tornati, quelli di Si può fare, insieme fino alle 10, 800 24 0024. Siamo tornati insieme a Claudia Schiattone in assistenza oggi, come sempre ogni sabato, e anche in redazione, autrice insieme a noi di questo programma, così come Andrea Piana. Esatto, e con Carmelo Lauricella in regia oggi. Bello, visto che di solito siamo sempre di corsa in coda, sì. Giusto, li ringraziamo e salutiamo. Partiamo così. Che senza di loro il programma non ci sarebbe. Milano Monterosa oggi bello. Tutta la settimana incredibile, devo dire. La prossima che arriverà, io non sono un veggente, sono semplicemente uno che apre la finestra e vi può dire quello che vede fuori, niente di più. Però è stata una settimana stupenda. Sembrava primavera, io sono stato proprio benissimo. Esatto, tutti diciamo questo. Ovviamente prima o poi arriverà la grande gelata, immagino. E quello è un peccato. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per commentare quello che volete, tutto quello che volete, per raccontarci le vostre buone notizie, se volete twittare con noi l'hashtag Si può fare, e anche per giocare con noi. Il gioco è importante quest'oggi, molto importante, perché più che un gioco è quasi un rito che dobbiamo fare tutti insieme. Domani Valentino Rossi corre per l'ultima gara del MotoGP a Valencia e deve rimontare tutto, anche i suoi errori, prima anche i suoi errori. Ma no, errori. Diciamo che tutta questa storia, da quando abbiamo visto le immagini, quando abbiamo visto che è Marquez che tira la testata con il casco, quindi infatti in realtà è stato penalizzato perché ha messo fuori scia. Adesso io non sono un esperto, avviso, però quando ci sono questi momenti sicuramente domani sarò davanti al televisore a guardare questo incredibile ultimo Gran Premio MotoGP. Tifiamo tutti per Vale, e totalmente. Oggi vi chiediamo: se vince Valentino Rossi, voi cosa siete disposti a fare? Il vostro fioretto, insomma, bisogna sostenerlo anche promettendo di fare qualche cosa noi stessi, la nostra forza mentale forse potrà aiutarlo. Assolutamente, anche perché questo gioco, fare un fioretto nasce perché Alessio ed io parlando ci siamo detti: io sarei disposto a fare qualunque cosa, ma è facile dire qualunque cosa, bisogna dire cosa. Guarda, poi bisogna farla. Io per esempio potrei non mangiare cioccolata per un mese. Mi piace molto la cioccolata e non la mangio per un mese, tanto. Questo è molto buono, però bisogna alzare l'asticella. Io penso ci penserò durante la settimana. Una cosa che in questo momento penso che vorrei fare, siccome io vado spesso dalle mie nipotine, dai miei nipoti, e i miei fratelli mi dicono sempre: però facile, tu li fai sempre fare le cose divertenti. Invece bisogna fargli fare anche tipo facile portarli al circo, portali dal dentista, fagli addormentare la sera invece che aizzarli. Ho 10 nipoti. Ecco, potresti farli addormentare tutti per una sera almeno, tutti nei prossimi 10 giorni. Questo è il tuo fioretto, te l'ho fatto io. Perfetto, fatto, consegnato da Alessio, sono felicissimo. Se vince Valentino Rossi, 800 24 00 24, voi cosa siete disposti a fare? Anche oggi in palio. Sparate alto. Scusa, mi sono infilato, ma sparate altro, perché se tutto il paese mette altissima l'asticella di questa scelta, probabilmente con dei fioretti enormi Valentino ce la potrebbe fare. Allora, tra poco iniziamo, andremo in una cittadina dove l'accoglienza dei profughi si trasforma ancora una volta in una risorsa per merito di una ricetta molto originale. Ne parliamo tra poco, 800 24 00 24, vai! È solamente una questione temporale, a un certo punto arriva, punto e basta. A un certo punto hanno chiuso l'ingresso principale e hanno detto: avete perso il posto. È vero, il mio lavoro è sempre stato infame, ma l'ho chiamato sempre il mio lavoro. e ci ha spostato sempre un po' più avanti la pensione, ma quello adesso è l'ultimo pensiero. Non ho che te, non ho che te, ti chiedo scusa se ti offro così poco. Non ho che te, non ho che te, volevo darti tutto ciò che avrei dovuto, volevo darti tutto ciò che avrei voluto. Allora, cari ascoltatori, il titolo dei giornali, della cronaca locale che si è occupato di questa notizia è stato questo: il lavoro dei profughi paga lo stipendio a italiani disoccupati, niente po' di meno che. E abbiamo qua con noi il sindaco di questa cittadina, Comerio, che è Silvio Aimetti. Buongiorno, benvenuto sindaco. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, come siete riusciti a realizzare questa ricetta che apparentemente sembra, diciamo, miracolosa? Perché non soltanto accogliete i profughi, ma riuscite anche a non metterli in contrapposizione, come spesso viene fatto anche da illustri politici italiani, con altre necessità degli italiani, dei concittadini. Sindaco. Va bene, allora rapidamente, l'idea è nata a luglio, a fronte degli sbarchi, insomma, di quelle situazioni drammatiche che tutti vedevano alla televisione. E nel contempo noi sapevamo che nel nostro comune comunque c'erano delle situazioni di difficoltà di alcuni disoccupati italiani. Cosa abbiamo fatto? Io ho fatto una proposta alla mia giunta dicendo: abbiamo degli appartamenti del comune, teniamoli per gli italiani, però io avevo disponibile un mio appartamento, ho detto beh, facciamo così, io metto a disposizione il mio appartamento, ospitiamo un piccolo gruppo, perché noi siamo convinti che la soluzione di questo problema sia un'accoglienza diffusa di piccoli gruppi, quindi per un piccolo gruppo di migranti li ospitiamo, quello che stiamo facendo con loro, cioè attiviamo un progetto condiviso con delle associazioni e con il mancato introito da parte mia, diciamola così, dell'affitto, nel senso che è un contratto di comodato d'uso, abbiamo richiesto alla cooperativa di darlo a delle aziende per attivare dei progetti di inserimento lavorativo per dei disoccupati italiani. Ah, senta, quanti sono questi soldi che lei dovrebbe ricevere in quanto, diciamo, la persona che dà ospitalità in una casa di sua proprietà ai profughi? Quanti euro sono a profugo al giorno? No, i soldi a profugo al giorno è un altro tema, nel senso che... Quindi li prende la cooperativa. La prefettura dà alla cooperativa, se non sbaglio, sì. 30-35 euro al giorno che vengono utilizzati per diverse cose, quindi per pagare l'appartamento, per far frequentare dei corsi, sì. per il vita, insomma le cose che servono loro, chiaramente per pagare il personale della cooperativa, perché nel nostro caso la cooperativa lotta all'emarginazione è una cooperativa che non fa soltanto ospitalità ai profughi, ma fa tante altre cose. Quindi fa delle attività. Sì, però scusi, ho capito bene o la parte di questi soldi che servirebbe per pagare l'alloggio viene detratta, visto che l'alloggio ce lo mette lei proprio in prima persona per pagare questi... Cioè, quanto sarebbe l'affitto del suo alloggio, questo che... Sì, no, ho capito. No, allora, il tema sono circa, credo, 800 euro, qualcosa di simile. Ecco, okay. Noi attualmente stiamo già attivando due progetti di inserimento lavorativo per due italiani che vengono da periodi di lunga disoccupazione con delle problematiche annesse, insomma, non semplici. E che tipo di lavori li avete messi a fare? No, sono presso delle aziende, lavori semplici, quindi sono lavori da operaio in questo momento, però è importante per loro perché, ripeto, venivano da anni di disoccupazione, quindi la situazione stava diventando realmente complicata. Cioè, però ci ha dovuto mettere del suo sindaco, perché non è una cosa, lei aveva questo appartamento, diciamo, vuoto, però magari può capitare anche ad altri di avere degli appartamenti vuoti così da, non è da tutti, Sì, vale, l'appartamento era vuoto, e chiaramente io l'ho dato a disposizione per un periodo limitato, e quindi credo fino alla fine del prossimo anno, proprio perché c'era questa emergenza. Mi permetto anche di dire che poi uno, quando sente l'appello del Papa, questi appelli, insomma, c'è stata una situazione veramente complicata a luglio. E quindi ben detto, io non ho parlato con mia moglie e con i miei figli, secondo me è giusto fare. Si è pentito. Sembra quasi che si sia pentito. Cioè, a luglio c'è stata una situazione straordinaria, adesso ormai mi sono impegnato. Non mi sono pentito, ma ma non voglio neanche metterla giù troppo dura. No, ma è chiaro. Intanto complimenti, sindaco, perché è un'ottima notizia. Quello che mi chiedo giustamente è che lei ha fatto un gesto stupendo e altruista, ha detto io do il mio appartamento senza voler niente in cambio e non solo, e chiedo che la cooperativa, quindi ciò che risparmia, lo metta a disposizione. Mi chiedevo se esistevano anche degli altri modi, che non sia semplicemente il fatto di un sindaco che sia proprietario di un appartamento e che in maniera straordinaria decida di in qualche modo di donarlo a tempo alla città. Questo io non so se ci sono altri modi, io ho studiato questo. Il suo è stupendo. Sì. Il tema mio era quello di dare una risposta concreta, anche perché su questo tema parlano tutti, ok, di tutti i partiti, e le soluzioni, ecco. Il mio tema era, io sono convinto che dei piccoli progetti di accoglienza diffusa, magari con persone che fanno la loro parte, nel senso che ci sono tantissimi appartamenti sfitti, quindi potrebbero dare... Ecco, questo mi sembra interessante, questo potrebbe essere la traccia, perché, mi scusi, al di là della casa del sindaco, che in questo caso lei ha messo a disposizione molto generosamente, infatti è una bella notizia, gliene diamo atto, quello che potrebbe essere, diciamo, esportato è il tema di immobili anche pubblici o sfitti che ci sono in molte città, magari in piccoli centri che sono anche spopolati. Allora, diciamo, se si potessero recuperare questi, i soldi stanziati dallo Stato per questa ospitalità potrebbero sì davvero essere convogliati in borse lavoro, come ha fatto lei con questi due signori, che sono questi due signori, che persone sono, quanti anni hanno? Che hanno 47 anni, insomma, oltre i 40 anni, tra i 40 e quei 50. Insomma, siamo nell'area di quelli senza lavoro di lunga durata, che sono un grosso problema, no? Ecco, che l'avranno ringraziata lei e la giunta, penso. Sì. In realtà volevo aggiungere una cosa, perché è molto giusto quello che dicevi, Alessio, il fatto di dire magari di destinare dei luoghi pubblici, però mi sembra che lei, sindaco, sia stato bravissimo, perché ha risolto il problema mettendoci del suo e anche garantendo, in quanto l'appartamento è suo, perché se non sbaglio proprio alla vena Ponte Tresa si è provato a dare un'ex caserma della Guardia di Finanza ad usarla per l'accoglienza, ma in realtà ci sono stati dei movimenti di destra che hanno fermato tutto l'iter per le proteste, la legge Lega ed altri, quindi credo che sia difficile anche riuscire a dare dei beni pubblici ai profughi, perché poi c'è chi si lamenta. Sì, il tema è questo qua, infatti io gli appartamenti del comune li ho tenuti per gli italiani, quindi io questo l'ho detto chiaramente. Poi se dobbiamo perché parlare nel suo comune della Lega, io ho avuto gente che è venuto nel consiglio comunale, nel mio consiglio comunale, è venuta la Lega con tanto di cartelli a farne piccanti, perché a un certo punto ho detto, sentite un po', ma alla fine della fiera questa è casa mia, cioè uno potrà decidere cosa fare della propria abitazione, considerando che gli appartamenti liberi di proprietà del comune sono liberi per gli italiani. Quindi ho ricevuto delle polemiche assolutamente immagino, ma a un certo punto uno stava dicendo che nel suo comune ci sono comunque degli italiani che hanno necessità dell'alloggio, emergenza abitativa. Quanti sono? No, noi abbiamo degli appartamenti di proprietà del comune che abbiamo destinato dei nuclei familiari. Le normali politiche abitative che fanno i comuni. Le normali politiche abitative, non abbiamo un'emergenza abitativa in questo momento, ecco, non abbiamo, e quindi diciamo che gli appartamenti di proprietà del comune sono dati tutti dati a delle famiglie italiane che avevano i requisiti, quindi c'è chiaramente un bando, hanno partecipato, avevano i requisiti e sono in questi appartamenti. Senta, ecco. Quindi lei tra i due sistemi, diciamo il metodo dei grandi centri di accoglienza, oppure appunto come hanno studiato alcuni prefetti le caserme da dare ai profughi eccetera, o il metodo invece che è quello che sta facendo lei, cioè di spargerli in piccole situazioni dove forse si disperdono e creano anche meno disagi forse a chi deve convivere con questi profughi, quale dei due metodi suggerirebbe, diciamo così, al governo di adottare su scala nazionale, visto che nel suo comune è riuscito ad affrontarlo brillantemente la questione? Beh, assolutamente secondo, ma senza ombra di dubbio, le dirò un'altra cosa. Nel mio comune abbiamo subito iniziato a luglio, perché a luglio non era come adesso, cioè a luglio era un po' più complicata la cosa, c'era molta più aggressività su questo tema. Quindi noi abbiamo subito creato un gruppo di lavoro con la parrocchia, delle associazioni, le scuole, perché queste persone adesso frequentano tutto un corso di italiano, e poi sono arrivate da sole altre associazioni. Le faccio un esempio, la Chiesa Luterana, è arrivata anche la Chiesa Luterana dicendo voglio fare la mia parte, voglio aiutarvi. In questo modo si è attivato questo gruppo di lavoro, hanno cominciato a studiare l'italiano. Attualmente queste persone per 3-4 giorni alla settimana fanno attività di volontariato per il comune. In questo momento, per esempio, stanno pulendo tutte le strade del comune dalle foglie, per esempio, perché in autunno cadono le foglie, e faranno altri lavoretti. Quindi adesso sto parlando non degli italiani, sto parlando dei rifugiati. Quindi ecco, col piccolo gruppo si possono organizzare anche queste cose senza andare a impattare. Perché io vedo le persone anche del paese, sono contente, vedono queste persone in giro che fanno, chiaro, sono ospitate, ma fanno dei piccoli lavoretti, quindi c'è una maggiore comprensione. È chiaro che quando parlo con sindaci di paesi con 10.000 abitanti che hanno 80 persone in un unico stabile, posso capire la loro preoccupazione. Quindi sicuramente la strategia dei piccoli gruppi, a mio modesto avviso, è l'unica possibilità. Ci scrivono al 3492386666, ma stanno già arrivando un po' di telefonate. Attenzione al sindaco, non fare affitti gonfiati per prendere più soldi. Beh, direi che l'abbiamo risolta. Il sindaco non prende assolutamente neanche una lira di... No, beh, allora se ci siamo le vi dico anche che pago l'IMU sulla seconda casa, perché siccome qualcuno ha detto, io pago anche l'IMU sulla seconda casa per quella vita. Ecco, forse questo è esagerato in realtà, poi ammetto che lei... No, non posso fare altro. No, è corretto. Beh, insomma, sì, immagino che sia un problema gigantesco di burocrazia, però uno può dire, siccome la sto dando gratuitamente al mio comune affinché ci vivano i profughi, ma insomma questo... A parte che la tassa sulla seconda una casa la fissa lei perché è il sindaco, giusto? No, beh, la TASI nel mio comune non è mai stata applicata, non c'è, né sulla prima né sulla seconda casa. Perfetto. È da 2 anni che non c'è, non abbiamo mai applicato la TASI. Ecco, qualcuno dirà che lei l'ha fatto apposta per risparmiare quei 2,70 euro della sua casa. Ah, ok. Comunque, complimenti. Grazie, buon sabato. Buongiorno. Il sindaco di Comerio. Cioè, questa è la notizia, poi naturalmente si può commentare, anzi sicuramente non è una soluzione, infatti diciamo, un peccato è quello, esportabile ovunque. Qui il sindaco ci ha messo del suo, ci ha messo casa sua. L'idea però di utilizzare appartamenti sfitti per vari motivi che non sono utilizzati da nessuno, anziché dare i soldi a queste cooperative che poi, come a volte abbiamo visto, ci lucrano, ci sono cose di corruzione eccetera eccetera, si possono creare addirittura delle piccole risorse per delle borse lavoro per anche dei disoccupati italiani, però, o stranieri. Sì, semplicemente, però, come lui spiegava, è se do un bene pubblico, parte la protesta della Lega, parte la protesta della destra. Quindi l'unico modo che io ho per scavalare questa cosa qua è regalare casa mia. Quindi è un po' quello. Invece io penso che la politica debba fare delle scelte, e quindi se qualcuno si lamenterà, ma forse vanno messe in delle strutture pubbliche. Non possiamo aspettarci che tutti i sindaci abbiano una casa di proprietà da regalare al proprio comune. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per commentare questa notizia, per giocare con noi. Se vince Valentino Rossi domani, che cosa sono disposto a fare? Il vostro fioretto per sostenere la rimonta di Valentino. Anche oggi 2 biglietti, il catalogo della mostra Tamara Dell'Empicca a Palazzo Forti a Verona dal 20 di settembre fino al 31 di gennaio. Benissimo, ci risentiamo tra poco dopo la pausa. Logisticamente, Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buon sabato a tutti. Fioretti per Vale, questo è l'hashtag su Twitter, potete twittare con noi. Se vince Valentino Rossi domani a Valencia, cosa siete disposti a fare? Però poi dovete farlo veramente, sì. Perché noi poi lo verificheremo. Io per esempio ho già twittato: se vince Valentino Rossi domani a Valencia smetto di mangiare cioccolata per un mese. Ma questo potrà sembrare poco, potrò dire 2 mesi forse. Scrive Claudio da Bergamo un sms dove vi ricordo che potete mandarci gli sms al 349-238-6666. Dice: il mio fioretto, anzi 2 fioretti per Valentino. Il primo, dividere con lui per 12 mesi il mio stipendio. Ed il secondo, per par condicio, dividere con me il suo guadagno. Sembra buono. Un fioretto è un direi sogno. Che da molti sms che arriva fuori la questione dell'evasione fiscale. Vabbè, forse bisognerebbe dire a Valentino: fai tu un bel fioretto, di pubblicamente questa cosa, che se vinci paghi il doppio di tasse. Bella. Giovanni da Pistoia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei. Buongiorno. Il suo fioretto, mi scusi, scusi se glielo dico, è veramente minimo, 2 mesi di cioccolata. Vabbè, ognuno fa quello che può. Ma perché ti fa Lorenzo in realtà, Alessio? Ecco, un market. E invece Giovanni, il suo fioretto qual è? Ce l'ha un fioretto? Come no, certo, ma guardi che il mio è un fioretto bello e importante, che se fosse seguito da tutti gli italiani che tifano Rossi sarebbe praticamente un trionfo. Sentiamo, sentiamo. Perché io, va bene, sono disposto, se Valentino Rossi non vince a Valencia, ma vince il campionato del mondo, sì, va bene, sono disposto a, come si potrebbe dire, a credere a 3 stronzate del nostro premier Cazzaro. mi sembra un fioretto bellissimo. Cazzaro è la definizione di Crozza. Facciamo 3 esempi. Facciamo 3 esempi. Il ponte di Messina. Il ponte sullo stretto. Questo è ovvio. Ma la vera domanda è: 3 cazzate in fila? Cioè, le prime 3 che dice dopo il mondiale? Oppure va a scegliersele? No. 3 cazzate a sua scelta. Allora, il ponte. Una è il ponte. L'altra potrebbe essere che c'è la crescita, che tutto va bene. Ma quello della crescita, effettivamente, sa, poi quando si è toccato il fondo in una nazione. Sì. Prima o poi doveva venire fuori la crescita. Giovanni, no, quindi ci credeva già a questa quadra? Alla questa crescita? No, non credevo a quello che diceva il premier della crescita, perché sparavano numeri che sembravano quelli del 8 moltiplicati per 100. Però la crescita ci doveva essere, ad esempio, ecco, come quella che sono preservati i nostri diritti democratici nella nomina di senatori nominati fra i banchi dei consiglieri regionali, che a loro volta sono eletti dal popolo, ma sub condicio che siano poi dopo approvati dalla giunta regionale. Ok, quindi la terza stronzata è che la riforma del Senato, diciamo, tutela la democrazia in Italia. Sì, ecco, va bene, ne abbiamo individuate 3. Giovanni, questo è il suo fioretto, mi sembra un'idea abbastanza originale, interessante. È molto bello. Mi piace. Esatto. Mi piace. Lasci il numero assolutamente, che la richiamiamo nel caso che dovesse vincere Valentino. Poi devi dimostrare però di crederci veramente, cioè Giovanni. Tipo devi andare in giro con dei cartelli in cui incita. Infatti forse crederci non è sufficiente, perché crederci una roba nella solitudine, forse deve addirittura fare proprio campagna, che deve andare nei bar di Pistoia a dire: ma non capite che il ponte sullo stretto è un'idea geniale? Bravo. Questo deve fare Giovanni se vince Valentino Rossi. Con ciliscio e frusta, va bene, dicendo: ottimo, mia colpa. Grandissimo Giovanni, grazie mille, buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. E questo era il primo fioretto, Fioretti per Vale, l'hashtag su Twitter 800 24 00 24. Continuate a chiamarci, chi dà la risposta più interessante, più originale, si porta a casa 2 biglietti e il catalogo della mostra Tamara e deve andarci con Valentino, però deve andare con Valentino a vedere la mostra, ovviamente. Le vince 2 di biglietti, sono 2, esatto. Poi traffico. Valentino. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua con Lorenzo che ci chiama da Lecco. Buongiorno Lorenzo. Tocca a lei. Attaccato. Non tocca a lui, allora niente, non c'è più. Claudia da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Se possibile, volevo tornare un attimo su quel discorso del comune e del sindaco che ha deciso. Certo. Ecco, il sindaco di Comerio, ahimetti. Ecco, però io penso che sarebbe utile, anche se voi conduttori un po' l'avete fatto, però a chi sentiva, in primo piano c'è stata l'eccezionalità di questa bravissima persona, no? Invece io ritengo che vada messo in rilievo che la progettualità che può avere il comune, magari anche il piccolo comune, nel risolvere dei problemi sociali, che sono sì in questo caso quelli degli immigrati eccetera, no, ma anche i propri, no, cercando delle risorse. E questo aspetto nel nostro paese, vuoi perché magari i media preferiscono il sensazionalismo, il litigio, no, su questi temi piuttosto che la concretezza, non viene abbastanza approfondito. Invece di risorse finanziarie, di gente che sarebbe ben contenta di mettere a disposizione una delle somme, no, su un progetto preciso, magari anche delle case. Noi abbiamo interi comuni qui in montagna di comuni che sono vuote, case vuote, sono completamente vuote. Bisognerebbe utilizzare quelle anziché buttare via i soldi in queste situazioni dove ci sono delle cooperative che poi in alcuni casi addirittura hanno fatto affari sporchi su questa questione qua. Claudia, grazie, chiudiamola così. Ci sono tanti spunti su questa vicenda. Comerio in realtà è una piccolissima iniziativa, probabilmente non replicabile, perché si basa sulla generosità del sindaco, e forse, come dicevi tu Carlo, non è neanche auspicabile che i problemi si risolvano a colpi di generosità individuale. Però no, volevamo dare un segnale. Esatto. E comunque dice bene anche Claudia, che dice che bisogna semplicemente guardarsi di più intorno. Lei dice esistono risorse, solo che usiamole. Nessuno parla di quello, ma parla semplicemente delle manifestazioni in piazza contro i profughi. Allora, adesso invece parliamo con l'autrice di un libro che ci è piaciuto, ci ha, diciamo, interessato. Keep Calm e smetti di fare il cafone, di Miss Caterina, un pseudonimo. Parliamo con Flavia. Buongiorno Flavia. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Un nome d'arte, anzi, Miss Caterina. Flavia che... diciamo che è un'ispirazione un po' mutuata da Donna Letizia, Irene Brin, ai tempi in cui i Galatei in Italia andavano forte. Ah, perché infatti adesso la questione, il tuo è un libro nel quale insomma si recupera un po' questo tema delle buone maniere, del cercare di essere educati. Cioè nel 2015, diciamo, possiamo aggrapparci nella società liquida di Zygmunt Bauman, dove tutto ci sfugge di mano, a queste poche certezze, per esempio che le buone maniere sono ancora importanti? In realtà, secondo me, Bauman direbbe le buone maniere non sono importanti ed è per questo che le dobbiamo recuperare. Proprio perché in questa società in cui tutto è così frenetico, diventare aggressivi è quasi un sinonimo di essere vincenti, recuperare la cortesia, la gentilezza, ma semplicemente il saper vivere è fondamentale, per vivere bene. Facciamo degli esempi, perché ci sono, a parte che c'è l'elenco delle cose cafone, no? Noi siamo partiti con Piotta, super cafone, mangiare a bocca aperta, e vabbè, questo diciamo che è d'antica tradizione, appoggiare i piedi sul tavolo, io lo faccio ogni tanto. È veramente brutta? Non si ma dovrebbe. Lo fai in casa quando no, sei qui da lavoro, solo? Qui al lavoro. Ah, al lavoro. Perché c'ho la scrivania, sono l'ultimo, diciamo, della che fila. È una cosa che potrebbe andare su Twitter con hashtag cafonate. Ecco, appunto, cafonate, certo. Perché tu dici si può fare cioè, solo se sei un cowboy, quindi se non sei un cowboy. Oppure non fai. Se hai una cowgirl sulle gambe, insomma. Quindi dipende anche un po' dal contesto. Ma posso chiederle una cosa? Nel senso che mi sembra molto bello il fatto di parlare di nuove di buone maniere, calcolando anche che la società sta cambiando. Questo mi sembrava interessante. Invece, per esempio, questo elenco di cafonate, devo dire che molte delle cose che lei nomina sono proprio quelle che ci hanno insegnato i nostri genitori, cioè non mangiare con la bocca piena, non mettere i piedi sul tavolo, non sbadigliare. Invece mi chiedevo se forse esistono delle nuove cafonate, tipo forse inventare un hashtag per ogni cosa, forse un po' da cafoni, per esempio, così faccio un esempio. Assolutamente sì, questa è la cafonata chic, cioè praticamente quello che fanno tutti, uno si illude di fare una chiccheria e invece fa una cafonata. Però le cose moderne sono sicuramente legate agli smartphone, per esempio parlare al cellulare mentre sei in treno e il vagone è pieno e raccontare i fatti tuoi al massimo volume credendo che siano importanti è una bellissima cafonata. I genitori non se l'hanno insegnato perché al tempo i telefonini non c'erano, però uno si dovrebbe alzare, andare nel vagone, se proprio non può rinunciare alla conversazione, andare nello spazio un po' più libero, quello di passaggio dei vagoni e continuare lì la conversazione. Questo è un classico. Questo è un classico. Senti, ma tra le cose, perché tra le cose, diciamo, a cui tu aiuti a dare una risposta, c'è questa: si può far finta di niente con la vicina di casa il cui partner è stato messo agli arresti domiciliari? Ma io mi domando, è quello che è successo a te ed è per questo che usi l'anonimato? Sì, molte cose sono successe a me, dalla vicina di casa che va 2 settimane in Marocco, almeno così dice, e torna completamente rifatta. Quando la vedi dici, oddio, che ora cosa ne dico? E lì come ci si deve comportare? È quello con gli arresti domiciliari, la stessa vicina o un'altra vicina? Quella con gli arresti domiciliari per fortuna non è accaduto a me, ma a una mia amica, che appunto mi ha detto, ma cosa devo fare? E poi altre cose sono successe, perché io ho questo blog dal 2010, e molte persone mi scrivevano, mi dicevano, per esempio, devo andare da mia suocera, veramente una domanda che sembra uscita dalle conversazioni con Anna Letizia, devo andare da mia suocera, ma cosa mi metto? Piuttosto che a Natale devo fare un regalo alla mia ex moglie, che cosa regalo? E quindi rispondendo posso al avere blog, il suo numero di telefono, perché io la chiamerò spessissimo, ho tutti questi dubbi identici, cosa regalare, come mi vesto, mi scusi, l'ho interrotta. No, assolutamente. E quindi all'inizio erano semplicemente delle risposte legate a un blog che è venuto fuori proprio perché un pomeriggio, camminando per strada, mi ricordo ero a Roma, in Largo Argentina, un signore mi venne addosso e neanche si scusò. E pensai, ma cosa è successo? Quando io ero piccola, sono ancora giovane, però quando ero piccola, se succedeva una cosa del genere, uno si scusava in tutti i modi possibili, e il mondo forse sta cambiando. E da quel momento cominciai a riflettere sulle varie cose che mi capitavano, che mi sembravano scortesi, ma che erano socialmente accettate. Tutto lo trovate all'interno di Keep Calm e Smetti di fare il cafone. Miss Caterina Newton Compton, grazie per essere stata con noi. Grazie, buon sabato. Buon sabato. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ci risentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24 anche con i vostri fioretti per Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi, le vostre buone notizie o se volete giocare con noi. Oggi vi chiediamo, cari ascoltatori, se vince Valentino Rossi domani, che cosa siete disposti a fare? Sosteniamolo tutti insieme, i vostri fioretti devo, per Vale. Devo leggertene uno, cioè, che sono... è arrivato un messaggino bellissimo, i vostri fioretti sono solo un sacco di balle, io lo sto facendo davvero, sono impegnato nella semina del grano, sveglia un'ora prima oggi e domani e un paio d'ore in più la sera per avere il tempo domani per tifare Valentino. Ciao Stefano, ti salutiamo Stefano, effettivamente questo è un fioretto bellissimo, questo diciamo è un fioretto per poterlo tifare, quindi straordinario. Ce ne sono altri sempre all'SMS, certo. Adesso ne leggiamo altri, intanto diamo il buongiorno e il benvenuto all'orchestra di Via Padova. Ciao. Buongiorno. È qua con noi, abbiamo dovuto guardare perché sono tantissimi, sono per questo che avete sentito questa pausa prima del buongiorno, perché si sono accordati, sono giustamente un'orchestra e quindi il direttore ha fatto un segnale per dire adesso dite tutti insieme. Buongiorno. Infatti siamo entrati tutti separati. Nelle persone di Massimo Latronico, Francesca Sabatino, Massimo Mercer, che è veneto, Massimo, sì. Però si può pronunciare anche alla francese, sì, volendo. Come dopo, insomma. E Andon Manusci. Allora, tra poco sentiremo anche un po' di musica, perché fateci un po' sentire gli strumenti, così qualche per capire. È vero, tutto vero. Tutto hai vero. Paura che le persone pensino che in realtà non ci sono, ma sono registrate. Abbiamo comprato semplicemente il CD. Aspettiamo i vostri interventi, cari ascoltatori. Tra poco, adesso sentiamo subito un po' di musica, perché andiamo a introdurre il prossimo argomento che ha a che fare. Un appello contro, diciamo, lo smembramento del Parco dello Stelvio. Ebbene sì, di questo si sta parlando. Sentiamo l'orchestra di Via Padova, se è pronta. Thank you. Allora, però spieghiamo che cos'era, Massimo, che cos'era, che cos'è che abbiamo sentito? La Montanara. Insomma. Fulco Pratesi, presidente onorario WWF Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. L'aveva riconosciuta la Montanara bella? Certo, è la prima cosa che ho sentito. Bellissima, straordinaria. Grazie all'orchestra di Via Padova. Fulco Pratesi, di nuovo insieme a noi, perché in effetti c'è questo, questo problema col Parco dello Stelvio. Che succede? Tremendo, il problema è tremendo. Questo parco, il più grande parco alpino d'Europa, è uno dei più antichi d'Italia. Nato nel 35, è stato praticamente per un accordo politico tra regione, province e Stato italiano, è stato per essere smembrato in tre pezzi. Un pezzo va alla provincia di Bolzano, un pezzo alla provincia di Trento e un pezzo alla regione Lombardia. Immagino che può gestire un parco nazionale che in tutta Europa è conosciuto come nazionale, secondo in tre monconi in cui purtroppo i controlli saranno minimi perché non c'è più quella gestione unitaria che i parchi nazionali dovrebbero avere sempre. Ma il problema nasce perché insomma si dice che c'è stata una mala gestione, no, di questo carrozzone pubblico, e quindi invece di risolvere la mala gestione si smembra tutto. Ma che insomma l'accordo è stato fatto ai tempi delle elezioni, quando si dovevano avere i voti della Volkspartei austriaca praticamente. Ma allora, questo accordo che oggi sta purtroppo alla firma del Presidente della Repubblica, non so come farà a bloccare, ma insomma è una c'è già la firma del Presidente della Repubblica, Pratesi? C'è già la firma di Mattarella? Io ho parlato anche ho anche scritto a Mattarella, non so quello che potrà fare, però Napolitano un tempo bloccò la stessa manovra, ma allora poteva farlo. Oggi penso che sia andate così avanti le cose che rende impossibile bloccare questo smembramento, questa specie di lacerazione di un parco nazionale oltretutto cinquantennale. Ma come mai si è arrivati a questo punto? Come mai non lo si è bloccato prima? Come si arriva? Si è arrivati così per solita cosa, ma mica solo per questo, tutti i parchi nazionali italiani stanno soffrendo per mancanza di direttori, mancanza di consigli direttivi, di presidenti. C'è un però è un peccato, no, Pratesi? La natura che fa paura. Sì, è un peccato perché i parchi nazionali, oltre a essere antichi, il Parco dello Stelvio, il Parco del Gran Paradiso, il Parco d'Abruzzo, di cui lei è stato presidente. Le nostre gemme, i fiori e l'occhiello, anche meglio di fiori, e sono purtroppo oggi considerati cose di seconda categoria, dopo tanto cose che si è fatto per farli diventare. Mi ricordo la legge quadro del 91, fu un grande successo per ricreare finalmente una rete di aree protette, quando non avevamo nessuna praticamente fino allora. E questo è stato, secondo me, un delitto veramente nei confronti della natura, non di una cosa secondaria, ma della natura italiana. Perché noi, Pratesi, non è che non siamo degli esperti, non so se l'orchestra di Via Padova ci sono qua degli esperti di parchi naturali, no, nessuno, sono tutti così, siamo tutti all'ascolto, però insomma, una cosa viene da dirla, insomma, io per esempio sono stato nel parco nazionale, internazionale, il parco Kruger Park in Sudafrica, dove si fanno dei grandissimi safari, cioè, è un parco grande, quattro volte l'Italia, e ci sono quattro nazioni confinanti, addirittura sono nazioni che si accordano tranquillamente tra di loro per gestire questo parco meraviglioso, cioè se c'è una cosa per definizione che non può essere, non può avere confini, è la natura. Allora lo smembramento di un parco ci sembra una cosa assurda, è così. Paradossale, certo. Ma perché ma paradossale? Quello che mi chiedo è se c'è un piano dietro tutto questo dello smembramento, ovvero di lasciare un vuoto politico, di avere l'assenza dei direttori. Già sappiamo che ci sono delle forti pressioni da parte dei cacciatori di poter entrare in questa, specialmente nella parte altoatesina, poter entrare a sparare ai cervi e agli altri animali. È tutto un meccanismo, secondo me, che sta provincializzando un ente che deve essere nazionale, addirittura sovranazionale, visto che confina anche col parco della Tra l'altro. Ma il ministro Galletti in tutto questo come si sta comportando, secondo lei, Pratesi? Chi? Bravo, chi? No, dico il ministro Galletti. Il ministro Galletti. Quello che sì. Uomo, non so quanto potrà fare con energia e potenza quanto ci chiederebbe su un argomento di questo genere, di questo livello, di questa importanza. È un'importanza europea, non solamente nazionale. Perché, ma secondo lei Galletti com'è? Un po' incompetente? Perché qualcuno dice che insomma lui no, di ambiente non si è mai occupato, se non quando a Bologna ha fatto nascere la multi-utility, l'era, eccetera, eccetera. Come lo giudica lei Galletti come ministro dell'ambiente, Pratesi? Così, meglio, non lo so, non vorrei dargli un voto, ma certamente... Così, è una brava persona, per carità, ma non credo che sia di quelle col fucile puntato contro i nemici della natura, questo non mi sembra, perché d'altra parte è una parte del governo che non è la più, ma anche se tutto il resto non è che sia così sensibile ai temi vitali come quelle della natura italiana. Ma senta, ma i parchi naturali, no? Lo Stelvio, anche gli altri, cioè, perché io immagino chi ci sta ascoltando mi metto nei panni, no? Sono comunque gestiti coi soldi pubblici, certo. Soldi carrozzoni, stipendi pagati, direttori di parchi che poi magari non fanno il loro lavoro, eccetera, eccetera. Ma a cosa potrebbero servire, oltre che a tutelare la natura, anche per aumentare il turismo, per farci... Certo, ma... un'enorme funzione turistica e di immagine per zone e territori un tempo negletti, dimenticati, abbandonati come quelli del Pollino, che ne so, o del Cilento, oggi sono diventati io li visito spesso, diventati dei volani per il turismo, ma soprattutto anche per lo sviluppo civile e culturale delle zone. Io mi ricordo paesi, cioè io ho 81 anni e questi parchi l'ho creati praticamente in tante maniere anch'io, e ho visto il Parco del Pollino, che era una cosa assolutamente in Calabria, Basilicata, Calabria, forse trova belle strutture turistiche che funzionano, ristoranti belli, e tutto un insieme di cose che hanno dato vita a questi luoghi, non è solamente la conservazione della natura. Attenzione, perché abbiamo Massimo Latronico dell'Orchestra di Via Padova, che conosce il Parco del Pollino. Bene, certo. La mia famiglia viene da lì, ecco, dalla parte lucana. Qualcuno dei tuoi parenti lavorava dentro il parco? No. Però dalla parte lucana, quindi anche sì, tu diciamo sei un secessionista che dici, perché la parte lucana dovrebbe essere divisa dalla parte l'altra. Ma è tutto così. Non va bene. Senta, Pratesi, resti un attimo con noi, se può, se ha ancora due minuti. Dobbiamo fare una pausa per le informazioni sul traffico, poi voglio parlare con lei anche della legge regionale della Toscana, una legge sugli abbattimenti di cinghiali e di altri ungulati. A tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questo quasi minuetto, cos'è? Orchestra di Via Padova, cosa stiamo sentendo? Uno show brasiliano. Ci avevo azzeccato, è un minuetto. Io di musica non so niente, quindi non entro nella querelle. Fulco Pratesi, sempre insieme a noi. Senta, questa questione qua della legge, che in realtà è una proposta di legge della Regione Toscana per abbattere alcune centinaia di cinghiali, di altri ungulati, cervi, perché ce ne sono tantissimi questi. Tanto questa estate proprio in Toscana c'è stata una vittima per un incidente causato proprio da un cinghiale. È il giusto modo di procedere per regolare i rapporti tra l'uomo e la natura? Ma io penso che i rapporti tra i cinghiali e l'uomo sono rapporti molto difficili. Io stesso ho una campagna e ho dovuto recintare vigneti, noccioleti e altro perché i cinghiali facevano danni. Però il discorso problema è questo, la base di tutto. La base è che i cacciatori vogliono avere i cinghiali, ne vogliono tanti. Se noi consigliamo, come io ho fatto con un gruppo di cacciatori del paese dove abito, di ridurre i cinghiali catturandoli con delle grandi trappole e poi me stendoli via, Questi dice, beh, mi sembra una cosa molto buona, andremo a parlarne in provincia. Sono andato a parlare in provincia e gli hanno risposto, no, non vogliono, perché qui vogliono avere tanti cinghiali. Quello è il problema di tutto, è voler tante prede da cacciare. Questo è il problema di tutto, anche se noi si faranno poi delle operazioni di cattura e di abbattimento di mattatori per i cinghiali. Se si rendono questi cinghiali una cosa che può essere diffusa sempre ad libitum, come sta succedendo oltretutto con immissioni di animali da fuori, come è successo con i cinghiali che venivano dall'Ungheria, e il problema non si risolverà mai. Perché questi cinghiali di cui parliamo, molti sono di importazione, sono di taglia più grossa, sono questi cinghiali ungheresi. Certo. Poi i bravi cacciatori, io ero cacciatore anch'io tantissimi anni fa, sono cinghiali immigrati, quello tanto tanto apprezzato è un cinghiale, un cinghialetto bellino, ma non è come queste enormi bestioni che vengono dall'Ungheria, dalla Romania e da altri paesi dell'est, che sono grandissimi. L'ho visto nel parco d'Abruzzo, sono grandi come orsi, fanno paura veramente. Senta, ma che ne pensa di questo veterinario che si è fatto fotografare col leone in braccio, ammazzato in Tanzania? Beh, e lui rivendica la caccia per sport. Che, insomma... Posso dire che è un cretino? Certo, non che può dirlo. Uno che va a fare ancora oggi, con tutto quello che sta succedendo alla fauna, specialmente africana, con delle stragi assurde fatte del barconi, andare a divertirsi tutto a pagamento con animali magari già pronti per essere sparati, mi sembra una cosa ridicola oltre che inaccettabile. Tra l'altro, un veterinario, la cosa pazzesca è che un veterinario, no? Cioè dovrebbe essere amico degli animali. Invece, non farei tanto cosa sui veterinari, cioè dei veterinari bravissimi, ma altri così, non tanto, secondo me, non tanto. Che onorano il loro mestiere, la loro professione e la loro missione. Essere veterinari è una cosa molto importante. Ammazzare un povero leone, oltretutto non hai fatto nulla, e mi sembra una cosa veramente inaccettabile. Sì, in realtà. Allora, io intanto la devo ringraziare di una cosa, la devo ringraziare da 10 anni, perché lei nel 2006 disse, in una intervista che poi divenne famosa, disse: sono ecologista, mi lavo ogni 7 giorni. Sì, e io devo dire che tutte le volte che mia mamma mi dice fatti la doccia, o il mio amore mi dice fatti la doccia, io sono come Fulco Pratesi, io sono ecologista, mi lavo una volta a settimana. Mentalità è bravo, igieniste stupidi che poi portano tanti mali. Si è visto oggi, ieri ho letto che i bambini che stanno sempre così pronti a un'igiene eccessiva voluta dai genitori, poi alla fine sono esposti molto di più ad allergie. Però lavarsi le mani, Pratesi, serve per insieme ai cani e ai gatti stanno molto meglio. No, adesso addirittura a rotolarsi come i cani e i gatti stanno meglio? I bambini? Se si rotolano come cani e gatti sono più in salute? Assolutamente, e anche i cani e i gatti. Io sono con il mio cane, io ho 81 anni e grazie al mio cane che mi fa compagnia e mi obbliga a fare delle passeggiate, sto benissimo. Però non ha 81 anni anche il cane, sennò questo è un nuovo scoop. Perfetto. 4 kg, un piccolissimo cane. Senta, sentiamo un ascoltatore che forse vuole anche farle una domanda. Se ha ancora 2 minuti per restare con noi, poi ci salutiamo. Sono con lei. Francesco da Torino. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Prego, volevo sapere se alla domanda si può fare e si può rispondere con un punto esclamativo. Mi riferisco a un'opera piccola, relativamente piccola, che molti turisti che si recano da nord a sud sull'asse tirrenico desidererebbero che fosse completata. È un piccolo raddoppio dell'Aurelia, che è praticamente una strada a grande scorrimento, su cui adesso però si viaggia benissimo, a dir la verità, Francesco, rispetto a qualche anno fa è già quasi un'autostrada. Ci sono ancora alcuni piccoli tratti nella pochissimo. Piccolissimi prima del Lazio. Questo è un posto assolutamente delicato e va a investire territori di enorme valore, non solo paesistico ma anche naturalistico, le Vareosi Maremmane, che sono un gioiello assoluto per la Maremma. Benissimo. Che soprattutto in quei luoghi ha una bassa densità di popolazione e anche un basso tasso di traffico. Va bene, sì, Francesco. Per raggiungere meglio questi luoghi sarebbe, ci sono veramente dei piccoli punti in cui basterebbe. Ma lei, scusi Francesco, lei vorrebbe fare come qualcuno diceva, l'ex ministro Matteoli, il raddoppio, quindi con una vera e propria autostrada, oppure si accontenterebbe? Io vorrei solo evitare quei semafori, quella corsia unica che rallentano moltissimo. Però è d'accordo con me, Francesco. Sì, io spero di sì. È d'accordo con me, però, che già la situazione è molto migliorata negli anni, c'è solo forse un piccolissimo tratto che è una corsia unica, il resto è quasi tutto a doppia corsia. Io la percorro continuamente la strada Maremmana, diciamo l'Aurelia, che va da Roma fino a Cicina e oltre, ma trovo sempre una strada perfettamente percorribile e senza problemi. Semafori non credo neanche di averne trovati, se non in casi di lavoro in corso. Va bene, grazie Francesco. Salutiamo anche Fulco Pratesi. C'è un ascoltatore che ci ricorda l'SMS che sono due le persone morte in Toscana quest'estate per i cinghiali, non una, come avevo detto io sbagliando. Pratesi, grazie, sabato, buon lavoro, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Al lupo, viva il lupo! Viva il lupo! E ancora grazie per la doccia una ogni sette giorni. E speriamo che non smembrino il parco dello Stelvio. Massimo Latronico. Volevo dire una cosina sempre sui cinghiali. D'altra parte ha ragione il signor Pratesi a dire che sono cinghiali importati, perché io conosco un po' la situazione nel Pollino e lì sono cinghiali incrociati con maiali. Quindi vuol dire che ad ogni filiata vengono fuori 12 cuccioli, 14 cuccioli e non 3 o 4 come dovrebbe succedere in natura tra i cinghiali. Quindi nel giro di due generazioni la popolazione è quadruplicata, con un impatto naturalmente sulla natura molto diverso da quello che ci potrebbe essere lasciando le cose così come sono. Orchestra di Via Padova, avete un fioretto? Vi interessa il moto mondiale? Seguite o no? Sì, assolutamente. Sì. Massimo. Sì. No, scusami. Massimo, sì. Massimo, siamo sicuro. I due Massimi. Sì, esatto. Si chiamano tutti Massimo perché all'orchestra di Via Padova sono talmente tanti, e sono di qualunque etnia, di qualunque provenienza, esatto. Quindi si chiamano tutti. L'unica particolarità è che devono chiamarsi tutti Massimo. Esatto. Anche Francesca, in realtà, come primo nome ha Massimo. Certo, Massimo e Francesca. Esatto. Ce l'hai un fioretto, ce l'hai rivelato poco fa prima di andare in onda, adesso lo devi ridire. Se vince Valentino Rossi, io andrò a un comizio di Salvini, assolutamente. Ok, perfetto, è già l'occasione perché domani pomeriggio ce n'è uno a Bologna. Quindi. Sì, domani insomma potrei, dopo il Gran Premio potrei andare. Se vince Valentino Rossi ti venga a pescare e ti accompagno personalmente a Bologna al comizio di Salvini. Ascoltatori e anche twittaroli, come si dice? Twitteri. Se volete twittare, fioretto per Vale e potete sfogarvi. Francesco da Milano, da Napoli, buongiorno, benvenuto. Da Napoli, buongiorno. In questo momento ho acceso una sigaretta. Il mio fioretto è togliermi il vizio per il Valentino. Bravo, bravissimo Francesco. Ma lo dico sul serio, perché guardi, le ho provate con l'acupuntura, cerotti e quant'altro. Ci vuole solo le forze di volontà. Ma per Valentino stavolta ci metto proprio la volontà massima che ho. Fantastico. E non sono un accanito come, non so se ne capite di calcio, come Sarri, il nostro allenatore, che addirittura va in paranoia se non fuma. Faccio il mio pacchettino di sigaretta al giorno, ma per Valentino, giuro, mi tolgo il vizio. Quanti anni ha Francesco? Posso chiedere? 54 e qualche patologia. È arrivata l'ora di smettere di fumare. È arrivato il momento, grazie a Valentino, giuro su Dio. Però poi noi la chiamiamo, la chiamiamo. Anzi, assolutamente sì. Anzi, assolutamente no, chiamarla non è sufficiente perché in radio lei può fumare. Dobbiamo proprio filmarla per 48 ore. Qualcosa del genere. Perché se poi davvero Valentino Rossi vince il mondiale. Una giustificazione, voglio darmi un qualcosa che mi faccia togliere il suo vizio, è la volta buona. È un bellissimo fioretto per Vale. Grazie Francesco, buona giornata. Grazie mille. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ci risentiamo tra pochissimo dopo la pausa con l'orchestra di Via Padova. Si può fare cronache da un paese migliore. Oh. questa atmosfera, questa volta da club newyorkese, no? Ho sparato. Sì, va bene, ci sta? Stare, ci sta. Piace, sì. Bella, orchestra di Via Padova. Grazie per essere con noi. Come ve la cavate voi con la musica di strada? Voi, perché voi nella vita fate altro, cioè, o fate questo? Facciamo questo. Quello mi dice sempre la mia mamma. Ma cosa fai? Ma di lavoro cosa fai? Mamma, faccio il musicista. Sì, ma poi di lavoro... Invece facciamo è una vecchia luci. Questione che sì. Tocca a tutti, che tocca agli attori, che tocca agli scrittori. Oppure suoniamo male, quindi uno dice: no, non possono fare solo i musicisti, fare un qualcos'altro. Però insomma ci tentiamo, facciamo solo i musicisti. Avete mai suonato per strada? Certo, come artisti di strada? Certo. E come vi siete trovati? Dipende dalle situazioni. Dipende dalle strade. Se posso raccontare un episodio molto, sì. Molto buffo. Ero a Roma con un gruppo, i Punti Trimusiche, molti anni fa, e stavamo facendo cappello in Piazza del Campo. Se facevamo musica balcanica. Cioè, cappello si intende proprio mettere il cappello per avere le monetine. Esatto. Esatto. E siamo andati poi verso i locali dove c'erano i tavolini a chiedere appunto i soldi. E ci rispondono: no, sono passati i vostri nipoti. E nipoti, i nostri nipoti ci hanno guardati ed erano degli zingarelli che hanno avevano... colto la palla al balzo, hanno visto che facevamo musica balcanica e hanno detto: stanno suonando i nostri zii. E facevano loro cappello per voi, facevano berretto invece, voi facevate cappello e loro facevano berretto. Cioè, quindi vi avevano fregato l'incasso praticamente. Sì, ma sono stati veloci. Vabbè. Tutto con destrezza. Beh, è giusto, la piazza è di tutti, la strada è di tutti. Il più bello quindi... della nostra vita, infatti. Fantastico. Allora, sentite qua una storia che viene da Bologna e non è però a lieto fine, nonostante noi cerchiamo sempre dei si può fare. Questo è un si può fare interrogativo, ma si può fare? Si potrebbe fare. Esibizione su A Sky Full of Stars di Coldplay è una cover di Michele Lupo in arte Basker Wolf. Buongiorno. Buongiorno. Artista di strada, bolognese o sì. Stai a Bologna? No, sono di Rimini, di origine. Però quello che ci stai per raccontare è accaduto a Bologna. Che cosa ti è accaduto di particolare? Sabato scorso, come sì. Ogni tanto vado a Bologna a suonare quando sono nelle vicinanze, perché generalmente sto in giro a suonare un po' in tutta Italia. Sì. E suonavo in Piazza Maggiore, come sempre, avevo i miei, diciamo, seguaci, i miei fans, comunque i miei certo. Di persone che mi guardavano. Io non finirò mai di ringraziare gli artisti di strada che ci allietano le passeggiate. È meraviglioso l'ingresso alla metropolitana, qualunque cosa. In metropolitana mi piace. È bellissimo, perché con poco ci fate vivere dei momenti straordinari. E poi si risparmia la batteria del telefono, perché uno si mette le cuffiette per sentire la musica, invece tutto quello si sente senza scaricare la pila, come direbbe Fulco Pratesi. Quindi sabato sera, Piazza Maggiore a Bologna, Basker Wolf, che succede? Succede che a un certo punto entrano i vigili, diciamo, nel mio cerchio di persone che avevo creato suonando. Ai ai ai. E mi chiedono di smettere, però diciamo abbastanza gentilmente, insomma, senza aggressività. Cioè si avvicinano dicendo: scusi signor Basker Wolf, potrebbe spegnere la sua chitarra? All'incirca. Mi dicono: guarda, è vietato l'amplificatore, dovrebbe spegnere e continuare senza. Io gli faccio presente che comunque in una piazza, anche come Piazza Maggiore, senza un amplificatorino almeno piccolo non si sente niente. Cioè dovevi continuare in acustica? Dovevo continuare in acustica, certo. Io gli ho anche comunque dimostrato un attimo che non potevo farlo, proprio sì. Molto gentilmente, non senza proteste. Cioè hai spento l'amplificatore e hai fatto sentire: guardi, così non mi sente nessuno. Sì, e ho chiesto anche comunque al mio pubblico, gli ho detto: voi sentite? No, tutti no. Beh, però sembra più un'imposizione da giudice di X Factor piuttosto che da vigile. Dice: adesso mi rifai lo stesso pezzo, ma senza tutta questa amplificazione. Sì, esatto. Con una mano sola. E quindi hai ripreso a suonare con l'amplificatore, se ho capito bene. No, ho smesso subito, perché comunque il pubblico bu. Io comunque non sono un tipo che faccia proteste. Sì. E quindi ho smesso subito e ho cominciato a smontare. Intanto i vigili mi avevano chiesto comunque il documento per identificarmi, sì. Come può succedere un po' a tutti. e hanno fatto i loro controlli nella loro macchina e fin qua. A un certo punto diciamo, sono tornati mentre smontavo i miei strumenti, mi hanno detto: guarda, c'è un problema. E io, oddio, che problema c'è? Dobbiamo fare la contravvenzione, dobbiamo sequestrare gli strumenti. Sono strumenti io che mi porto in giro da anni, sono affezionato, anche da tutta Europa, sono i miei strumenti di lavoro, cioè io mi guadagno la vivere con quelli. E quindi, oddio, un attimo mi sono anche innervosito, che comunque ho tenuto la calma perché mi sento stato proprio un affronto, diciamo, alla mia persona, al mio lavoro, alla mia vita, eccessivo. Ma poi scusa, tu avevi, ti hanno chiesto di smettere di suonare e tu hai smesso, quindi in realtà avevi fatto quello che dicevano loro, se abbiamo capito bene. Esatto, sì, solo che perché diciamo, il regolamento bolognese è scritto un po', diciamo, in maniera che si può interpretare, si può girare. Però aspetta, ma tu avevi un permesso? Un momento, aspetta, voglio chiedere, quanto ti hanno fatto di multa? 400 euro. Cioè, qui ti hanno fatto 400 euro di multa e ti hanno sequestrato la chitarra e l'amplificatore? No, gli strumenti alla fine me li hanno lasciati perché ho fatto presente che comunque il regolamento diceva determinate cose. Loro, facendo dei controlli un pochino più approfonditi, hanno capito che comunque il caso non era quello per sequestrare. Ecco, parliamo del regolamento, perché io adesso voglio dire una cosa, al di là di tutto, la vicenda poi andrebbe forse raccontata anche dal punto di vista dei vigili urbani, non lo so, magari loro avevano delle buone ragioni per fare quello che hanno fatto, però appare veramente paradossale, assurdo, che di sabato sera alle 20:30 in Piazza Maggiore, una piazza grande, dove tra l'altro non ci sono nemmeno abitazioni, ospedali, scuole, qualcuno a cui dar fastidio, un ragazzo che suona con un piccolo amplificatore e la chitarra debba essere multato 400 euro e addirittura sequestrati gli strumenti. È una cosa abbastanza... non mi era mai capitata una cosa, io non l'ho mai sentita. Ma perdonami, è per la presenza dell'amplificatore che ti hanno contestato? Perché in realtà se uno va in piazza e suona non è un problema, il problema è se in 100 vanno tutti con un amplificatore per farsi sentire in piazza e quindi questo crea un problema, o sbaglio? Sì, il problema dell'amplificatore io legalmente sono in torto, però comunque è una legge che non è dappertutto così, insomma, io sono da anni, non ho mai preso una multa, quindi l'amplificatore non è mai stato un problema. Perché tu giri il mondo anche, no? Facendo questo? Giro l'Italia, diciamo, insomma. L'Italia sì, l'Europa un pochino, adesso piano piano la finirò di girare tutta. E non avevi mai preso una multa? Mai, nemmeno 5 euro. Anzi, solo ringraziamenti o scuse da parte dei vigili, a cui io regalo anche magari i miei CD offerte libere che lascio in mostra. Questo non si può fare, però, di regalare ai vigili CD e corruzione. No, ma ho letto la tua storia e la cosa che mi ha incuriosito è questa, nel senso che di solito uno pensa che gli artisti di strada siano dei musicisti che magari non trovano altre possibilità e dicono intanto iniziamo così per provare. Invece ho letto che tu, se non sbaglio, nel 2012, correggimi, magari la data è un'altra, insomma, ti ritrovi a Londra e vedi gli artisti di strada e dici: che bello, io è questo che voglio fare, perché altre cose non mi interessano. Quindi torni a casa e ti metti a imparare a cantare. Quindi non è che sei una cosa che già sai fare e decidi di farla per strada, ma decidi quando lo vedi che è bello fare l'artista di strada, è giusto? Esatto, sì, non è un ripiego, è una mia scelta personale e non smetterò mai di esserne contento, e mi ha regalato la vita, la felicità, la serenità. E ti regala anche uno stipendio, Michele? Io riesco comunque a viverci, sì, riesco a viverci. Beh, dai, insomma. Questo è molto bello. No, con le multe, oppure con le multe poi non ci vivi più. Bravo. Perché io già mi immagino gli ascoltatori che dicono: beh, ma qui non paga le tasse. Bisogna pagare le tasse sugli introiti di un artista di strada? Per legge? Diciamo ci sono. Sono dei limiti, forse, sotto una certa soglia. Diciamo che in Italia non è molto. Non è molto approfondito come dicevo. Anche perché su che cosa le paghi? Mica fai lo scontrino a chi ti ascolta, giusto? Un po' difficile. Te lo immagini, sarebbe fantastico. No, ma io prevengo gli ascoltatori pignoletti di Radio 24 che ogni volta che parliamo di baratto, di queste cose qua, dicono: ma c'è l'evasione fiscale, come la guardia di finanza. Ma scusami, come mai non paga le tasse? Però questa cosa dei regolamenti, per esempio a Milano, non so se sei venuto recentemente a suonare, Michele, anche qua non siamo degli esperti, però sappiamo che c'è un regolamento del comune nel quale ci si può prenotare su una piattaforma web costantemente aperta e aggiornata. possibile, e all'interno degli spazi offerti nelle modalità possibili, poi diciamo si è all'interno, si è tutelati, quindi nessuno ti farebbe una multa. È così che dovrebbe essere? Sì, secondo me comunque gli artisti di strada sono un patrimonio. Poi diciamo che siamo un po' rovinati da alcune immagini che non ci sono solo artisti di strada o come me, ci sono tanti tipi di artisti di strada che vengono magari spacciati in questo modo, invece magari stanno lì a far casino e non sanno assolutamente suonare uno strumento e non danno sicuramente niente alle persone, non sono in grado di regalare emozioni e magari passando chiedono soldi e se non glieli dai li trattano pure male. Non è questo sicuramente il termine artista di strada, come invece in Italia, che siamo un pochino più indietro da questo punto di vista, delle volte vengono visti gli artisti di strada, è una cosa che... Vabbè, insomma, Bologna è la città della musica per molti aspetti, quindi noi speriamo che qualcuno che ci stia ascoltando magari questa multa te la cancellino, perché poi il fatto stesso che tu hai smesso di suonare quando ti è stato chiesto dai vigili urbani, a me è capitato più di una volta di vedere degli artisti di strada che si stavano esibendo, se arrivano le forze dell'ordine di guardi qui non si può per qualche motivo, questi smettono, vanno via, non credo ci sia bisogno di fare la multa. Grazie Baskerov. Grazie. Buon sabato, grazie per essere stato con noi. Mi chiedevo giornata. Se era vicino alla casa di Lucio Dalla, perché in realtà a Bologna dalla casa di Lucio Dalla, non so se ancora adesso, però ci sono stato un po' di mesi fa, dalla casa di Lucio Dalla intorno alle 18:30 all'ora dell'aperitivo diffondono della musica dai balconi, che quindi bello. Ovviamente con un amplificatore, perché non è che c'è Lucio Dalla che canta, perché purtroppo ci ha lasciato. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ci risentiamo tra pochissimo dopo le informazioni dalle strade. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Child, smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, the tidal wave of tears. That slowly disappears. Grazie all'orchestra di Via Padova. Abbiamo anche la musica dal vivo. Questo era un celebre brano il cui titolo era, soccorretemi, Smile, la vita è bella, di Nicola Piovani. Meraviglioso. Emozioni. E grazie anche alla nostra cantante che fino ad ora non si era esibita, Francesca Sabatino. Eccomi. Eccola qua. Massimo Mercer invece vuole dire qualcosa, forse prima proprio del tema degli artisti di strada, perché insomma, è una cosa che vi tocca chiaramente. Musicisti. Sì, tanto solidarietà a chi fa l'artista di strada, poi bisogna vedere come lo fa, nel senso che il ragazzo di prima ha fatto dei distinguo e io, sentendo la sua storia, faccio i miei di distinguo, però insomma va bene lo stesso. Per quanto riguarda la situazione fiscale, polemica fra artisti di strada. Esatto, attenzione. Siamo di un'altra strada. Allora. Siete della strada di Via Padova. Ottimo. Esattamente. Scusa, non per quanto riguarda invece la questione fiscale, quello che volevo semplicemente far sottolineare è che noi in Italia, come musicisti, stiamo vivendo una situazione tremenda da questo punto di vista, nel senso che le nostre tutele come lavoratore sono assolutamente ridotte all'omicidio. Ma la sa colpa di Jobs Act anche per voi? No, non è colpa. Più dell'Impals che è fallita, esatto, che è entrata nell'Inps. Esatto, siamo nella radio giusta per parlarne, esatto. Quindi noi apprezziamo, perché uno dice, c'è l'orchestra di Via Padova, si parlerà di musica. Invece mi è entrato subito, è il commercialista lui, esatto, dell'orchestra di Via Padova. Esattamente, Legnano è nota per essere... la città dei commercialisti. Esatto, terra di commercialisti, esatto. Quindi era semplicemente visto che tu hai detto prima, sì, hai chiesto questi soldi sono in nero, come sono, che per noi sta diventando difficile, non perché non vogliamo pagare le tasse, sta diventando difficile inquadrarci in qualche modo. Esatto, esatto. Quindi esistiamo. Conviene fare come fa Basker Wolf, di non essere inquadrati, sì, per niente. È un po' figlio, è un po' figlio poi di quella situazione lì, questa cosa, nel senso che poi se arriva il vigile e ti fa spegnere l'amplificatore è perché non c'è neanche un'educazione ad ascoltare la musica per le strade, nei luoghi preposti figuriamoci, e per le strade men che meno, insomma. Mi fate sentire in 30 secondi ancora un ascoltatore, poi dobbiamo lanciare AXA. Grazie da Milano, buongiorno. Come, buongiorno. Prego, su cosa voleva intervenire, grazie. Allora, io sul fioretto per, sì, Valentino vince. Sì. Se Valentino vince, prometto di sentire la zanzara per tutta una settimana. Ah, vabbè, è un attacco frontale, è entrata a gamba tesa. Non lo facciamo. Però, le leggo un messaggio che è arrivato, che mi sembra molto bello, che mi sembra anche un po' un sunto quasi della nostra puntata, che dice anche Rossi è un artista di strada. È vero. Ma perché, bravissimo, scusi, grazie, lei non l'ascolta tutta la settimana, fiscalità... l'ascolta 4 giorni su 5, immagino. Sì, mi arrabbia moltissimo. Manca solo il quinto giorno. Va bene, grazie. Ciao, grazie, grazie per aver partecipato con noi. Tra mille. Poco in chiusura diremo chi vince il premio di oggi. Adesso è il momento di lanciare Nati per Proteggere. Sono state selezionate le 8 storie finaliste, lo sapete, di Nati per Proteggere, il concorso promosso da AXA Italia per sostenere un progetto di protezione significativo in palio, un premio del valore di 50.000 euro. Andate sul sito, votate, vi proponiamo anche oggi altre 2 storie di protezione. Vai. Può succedere a tutti. Arriva il momento nel quale devi chiedere aiuto. Per esempio, perché non hai soldi per comprare i vestiti. E allora, per esempio, se hai figli, andare in un servizio sociale o in parrocchia può essere particolarmente frustrante. A questo hanno pensato quelli di Reuse with Love, associazione di Bologna nata proprio per recuperare abiti usati e proporli alle famiglie segnalate dai servizi sociali, come, ed è questa la novità, se fosse un negozio di moda. Una protezione in più rivolta a bambini e famiglie, come ci racconta Maria Letizia Mazzanti. Buongiorno a tutti, sono Maria Letizia Mazzanti dell'associazione Reuse with Love. La nostra associazione ha aperto a Bologna una boutique solidale molto accogliente, è un piccolo negozio del centro a tutti gli effetti, col quale distribuiamo gli abiti che ci vengono donati dopo averli puliti, ricuciti, lavati quando lo necessitano. Se vinciamo il bando del concorso AXA Nati per Proteggere, grazie al vostro sostegno potremo acquistare un furgoncino e un'ape car per poter portare la nostra filosofia di educazione al riuso di abiti e accessori in tutte le città d'Italia. La cosa particolare della nostra associazione è che la nostra boutique non ha una cassa, e così neanche i nostri furgoncini e le nostre ape car avranno il registratore di cassa quando distribuiremo i nostri abiti. È una boutique itinerante per aiutare, sostenere e proteggere le persone in difficoltà nel rispetto della loro dignità. Aiutateci a diffondere la nostra filosofia, educando nuove generazioni e a costruire basi per un paese migliore e socialmente consapevole. Potete votarci ogni giorno andando sul sito www.natiperproteggere.it, scegliendo la nostra storia, una boutique speciale, e votarci fino al 13 novembre. Mi raccomando, contiamo su di voi, aiutateci, grazie, ciao! Il prossimo progetto di protezione è direttamente rivolto ai bambini. Lo propone il MUBA, il Museo dei Bambini di Milano, che da anni ha come missione proteggere il diritto al gioco dei ragazzi. Il progetto che il MUBA mette in gioco per vincere l'assegnazione dei 50.000 euro di Nati per Proteggere è un percorso di educazione civica rivolta ai bambini, intitolato Alla ricerca del cittadino perduto, come ci racconta Cinzia Cattoni. Sono Cinzia Cattoni di Fondazione MUBA, fondazione no profit, con sede a Milano alla Rotonda della Besana. Il nostro obiettivo principale è diffondere progetti culturali, didattici, educativi a bambini dai 2 agli 11 anni, alle loro scuole e alle loro famiglie. E riusciremo a vincere il concorso Nati per Proteggere. Volemo sviluppare Diritto al Gioco, che è un progetto che prevede una diffusione dei concetti principali e basilari della nostra educazione civica, e vorremmo con i fondi ottenuti cercare di diffondere questo progetto nel maggior numero di scuole possibili, in particolar modo le scuole che non hanno la possibilità di effettuare ad uscite per motivi economici. Mi auguro che in tantissimi visitiate prima di tutto il nostro sito, che è www.muba.it, e votiate invece il progetto che noi proponiamo, diritto al gioco, sul sito Nati per Proteggere di Assa, per riuscire a diffondere nel maggior modo possibile ed arrivare al maggior numero possibile di bambini con questo progetto molto importante per far conoscere la nostra educazione civica. Eccoci qua, andate sul sito Nati per Proteggere, votate la vostra storia di protezione, così aiuterete qualcuno a una onlus a vincere 50.000 euro. Orchestra Via Padova, fate sentire, siamo in chiusura. Vabbè. Vi riavremo qualche altro sabato, sì, dai. Sì. La musica è stata protagonista di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti, i saluti li abbiamo già fatti in apertura. Ma vi ringraziamo ancora molto volentieri tutti. I nostri Andrea Piana, Claudio Schiattone, Carmelo Ricelle regia. Diciamo che vince il premio di oggi Francesco da Napoli, che ha promesso di smettere di fumare se Valentino domani vince il mondiale. Campione. Ciao. Ciao a tutti, buon sabato, ci sentiamo domani. Ciao.